Allora, buonasera, benvenute, benvenuti tutti in biblioteca, la biblioteca provinciale Claudio Augusta, che come avete visto è da qualche anno in questa sede provvisoria in attesa del polo bibliotecario, lo dico ogni volta per darci un po' di coraggio. Ecco. E comunque le cose si faranno, sì, lo costruiranno e abbiamo avuto assicurazioni, dobbiamo pazientare un attimo, ma andremo a finire all'ex Istituto Pascoli entro qualche anno. Nel frattempo, dal 2001, questa biblioteca raccoglie documentazione di carattere locale e non solo, di tutto quello che riguarda il nord-est, ma anche in generale la storia, la geografia e via dicendo. La biblioteca, comunque, per quanto riguarda il locale, ha sempre fatto un lavoro, sin dall'inizio, di documentazione della comunità anche italiana in Alto Adige, in particolare ha dedicato molti sforzi, lo sta facendo tutt'oggi, in quello che è il settore della memorialistica, della memoria, delle testimonianze. Devo ringraziare questa sera il dottor Uvietta perché è stato uno dei primi che ha partecipato e ha dato il suo contributo anche ai nostri progetti di memorialistica, perché ancora parecchi anni fa, circa nel 2005-2006, con Giorgio delle Donne aveva accettato e rilasciato un'intervista che integrava il nostro panorama sulla memoria della comunità italiana dal punto di vista dell'operato della medicina e quindi dei servizi sul territorio. La sua testimonianza è stata molto utile, abbiamo scoperto in quell'occasione anche altre attitudini che nel frattempo aveva coltivato sapientemente e quindi tempo fa era stata la volta di una serata dedicata alle sue poesie. Questa sera proseguiamo questo cammino e infatti è la volta della raccolta stagioni dove appunto ci presenta una produzione poetica che invece va dal 2005 ai giorni nostri. È importante per noi dare spazio a queste testimonianze anche in forma poetica perché la vita sul nostro territorio è fatta anche di narrativa, di poesia. L'abbiamo visto già quest'anno in autunno, è venuto il dottor Umberto Tecchiatti, questa volta la volta del dottor Uvietta. Abbiamo parecchie voci che si esprimono e che ci continuano a donare emozioni, ma anche spunti di riflessione, ecco, con un linguaggio nuovo, diverso da quello della narrativa o da quello della saggistica e dei contributi più scientifici, ecco, che magari a volte siamo abituati a presentare proprio in questa sede. Io ringrazio tantissimo il dottor Uvietta della sua disponibilità, ringrazio Patrizio Zindaco che presta la sua voce e il suo calore in tante occasioni presso la nostra biblioteca. Vi auguro una serata piacevole e cedo subito la parola al nostro protagonista. Grazie. Dunque, dovete servirvi qualche chiacchierata anche via di introduzione. Qui io ho voluto, da ottuagenario, ripercorrere la mia vita nella ritmicità delle stagioni scaglionate secondo varie angolature. La prima poesia, Ispirami Musa, mi rivolgo alla musa che fa vibrare in me la fantasia. Ispira, o musa. Ispira, o musa, il tuo poeta a metter l'ali al destrier focoso e selvaggio, che salga galoppando lungo il raggio dell'astro bianco degli innamorati, e corra per i pascoli del cielo, e non calpesti verdi prati e fior delicati. Si impegni pure, e libero sforazzi, scuotendo con violenza il volto crine, giocando con le rime ballerine. Ora cominciano le stagioni della vita. La prima poesia si titola Gelato. Vedere un bambino che succhia un gelato dà sempre una certa nostalgia e ridesta anche nell'adulto, più inoltrato degli anni, il fanciullo che è rimasto in lui. un gelato. Bambina serena che sorbisci il gelato, e meco ridesti un dolce passato. Non cancella la vita i nostri giochi innocenti, li rende più tenui, un tantino struggenti. Madre, non sono stato propriamente un mammone, erano i tempi della maschia gioventù. Ma mia madre mi adorava. Madre diletta. Oh, madre diletta, perché saziato non mai col tuo seno io distrugger cercai? Or peregrino io vago, d'altra sete e fame sospinto, a cercar chi le sue mani calde, forti e pur dolci, a carezzar protenda su questo esser mio infuocato, e spenga con grazia, in mite ebbrezza, l'esplosiva passion che esaudir non osa, o voler non può, o soave m'uccida e mi mandi puledro selvaggio a pascolare nei prati verdi del cielo. Grati. Non si può non essere grati a chi ci ha dato la luce e cresciuto e alle stelle che segnano il nostro arrivo e sembrano indicarci il percorso. Grati. A chi nascer ci fece e ci vide, alla madre e alla nostra stella, grati sentirci dobbiamo. L'una il rifugio ci servò caldo e sicuro, e coi segni dolci e generosi ci nutrì e calmò i nostri vagiti paurosi. L'altra ci coprì con il suo raggio e ci aprì al calore del sole a festeggiar nel fausto giorno noi, piccole sette frementi, balenì d'un niente nel tempo infinito ed eterno. Marzo. Non è solo il sorriso della Gioconda che ci affascina, ma anche quello di tante madri ai loro bimbi. Del resto, ma forse una deformazione professionale, occorrono circa un terzo di muscoli per sorridere rispetto al numero di muscoli coinvolti nel pianto. Marzo 2000. Oh donna, chi più di te ha saputo, sa e saprà gioire e patire? Quanto dolore in te hai consumato nella triste e crudele storia umana. Or sempre più desiato e rinomato resta il tuo impareggiabile sorriso. Se sapessi poi che pochi muscoli richiede, eppur quanta vita e gioia e speme esso sa dar a bimbi, a sofferenti, all'uomo tuo, giammai lo lasceresti tu mancare. Casa? Andato. Intanto parliamo a voce libera. Casalinga. Questa parte, quanta parte della vita, della gestione quotidiana copre e detiene una donna di casa? Ho voluto dedicare questi versi di gratitudine a tutte le compagne e mogli, compresa mia moglie. Casalinga full e part time. da secoli, onorata qual angelo attivo della tua focolare, quasi sempre sfruttata, ti aggiri per la casa, già al mattin ti arrabatti frettolosa, sciabattando. Tu vai riordinando in quella casa che per te era il top dei desideri e che ora si propone come rigida prigione. Sia pur che a lavare ora c'è la lavatrice, a spiattellare ti aiuta lesta la lavastoviglie, resta sempre il disagio che il lavoro che tu fai in giornata si dispa e domani poi ritorna come un moto perpetuo che già mai si conclude. Ma cos'è che ti regge e a sperarti di schiude? D'un impegno così duro il compagno tuo divide ben godendone i frutti, ma giammai la tua fatica. Tu gli hai dato la prole, arricchito il futuro allevandogli figli, lo hai reso più sicuro. Con il cuore tuo di sposa e di madre hai riunito i tuoi figli ed il marito. Solo il ciel ti riconosce e compensar vorrà tanta forza morale e infinita bontà. Pechine, vi invidio. Da quando cessa la fertilità biologica della donna, ha inizio per lei un'epoca di sopravvivenza attiva, a differenza di molti uomini che in quel momento si sentono perduti. Non è un caso che il buon Dio ha voluto le donne più longeve. Mi piace qui ricordare il quadro che mi ha ispirato, del pittore Gaia, cui mi lega un'amicizia sincera. Vecchine, vi invidio. Minute, sparute vecchine, oppresse dal peso del tempo che da sempre vi fu faticoso. Per voi il viver è ancor laborioso e al suolo andate ormai chine. Non si può che ammirarvi né sgargianti costumi di cerimonie lontane o in civettuoli vestiti nelle zone urbane. Quanto simili siete alla fertile terra che madre vi fu, come voi poi lo foste generandovi figli. Accomunate nei riti i vostri mariti, compagni li aveste in giornate festose e ancor più nelle meste che il Signore vi diede, ritenendovi pronte a vivere da sole. Voi tenaci restate, occupate ancor sempre nei più umili mestieri, a gettar come inutili le cose di ieri, poiché sagge sapete che purtroppo sol vale quel che l'oggi ci reca, del doman che ci aspetta. Non c'è alcuna certezza. Son vecchio. Ecco come l'uomo vive la sua vecchiaia. Molto va perso, ma resta l'essenzialità della vita e del cuore. Anche per le donne. Son vecchio. Oh, uom, che villosi il petto e il crine più non hai. Che ne fai di giovin foga, audacia ed imprudenza d'amor? Par quasi il tempo le abbia rapite. Con improbabil ritornar di fiamma, ad alma pur sempre desiata, costretto sei a subir dell'astinenza il crudel dramma. Non esser triste, che il Signor lo spirito tuo disperar lasciar non vuole, poiché l'età, siccome lontananza, priva ormai d'ogni arroganza, non spegne davvero i sentimenti, ma li rende più profondi e trasparenti. Vagabondo. A questo punto metto l'epilogo della mia vita. Ove ten vai, senza posa, per le vie del mondo, l'anima tua, se non corri, alla fin non riposa. Così vivo, vispo e vivace, già tua madre ti descrisse, nato con la valigia, a viaggiar ti predisse. Forse d'Icaro non l'ale che inducono a volare, o la fiamma di Prometeo che ti fa camminare. Forse fuggi da te stesso, da un dinamico passato, e ti slanci nel futuro, verso ciò che è destinato. Non c'è mai esperienza che ti possa saziare, né una vista, né un udito che non spinga ad andare. Frena il peso degli anni, il moto fisico, e reale resta fervida fantasia del sognare. Non è male. Negli abissi del mio cor, precipitando dal vagar dagli alti spazi della mente, e rimembrar ciò che di meglio e bello vissi in un passato così lungo e travagliato, meditare posso io serenamente. Ora passiamo alle stagioni dell'anno. Venezia d'inverno. L'inverno, per chi lo ha trascorso per oltre due lustri in Padania, ha molti aspetti negativi. Io ho voluto presentarlo come un bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Ecco i due esempi, Venezia e San Valentino. Venezia d'inverno. Venezia, ti vedo, anzi meglio, intravedere ti lasci, gentil donna superba di tua eccelsa bellezza. Immensi tesori nel tuo florido seno rinserri e sottrai alla vista impaziente di innumerevoli amanti. Li costringi a gelide e estenuanti attese, pria ad accoglierli e a saziarli l'indicibile gioia. Poi, frivola, attendi spiando da finestrelle inferiate che improvvisati menestrelli ti cantino felici leggiadre serenate. Alfin tu ti lasci confusi in romantica nebbia che il piacer offusca e il desiderio rinnova. San Valentino. Cuor sereno e contento può far donna che lo spirito d'amor sol sottintenda. Dov'è buio, chiaror tosto accende e il fluir della vita caldo, dolce e lieto rende. In primavera. Questa stagione risveglia i nostri sensi, la vista di nuovi colori, nuove gemme di fiori, l'udito di uccelli che la salutano e dai loro nidi incitano i loro piccoli al volo l'olfatto delle siepi di gelsomino e di calicanthus. Non è ancora primavera, ma quasi. Grazie. Dalle palade. Primavera sorniona, che ammicchi tra pallidi raggi di sole, dai monti d'Anaunia e gelide acque artesine e passirie. Tu sbirci nel piano i furtivi e timidi germogli che tu stessa hai già spinto a spuntare sui rami. Mentre in squarci di cielo sereno mostri candide cime d'eterna bellezza, metti in fuga folate di nebbia e fosche bufere, fai rinascere dal freddo invernale la speranza negli esseri umani di uscire da ogni nera atmosfera a cercare il calore della vita. Estate 1999, scorre la stagione nelle menti, nel sangue e nei cuori. L'estate è una meta. Primavera. Che ci porti, primavera? Frementi e frizzanti in cristalli di luce, le gocce abbondanti in gioiosa caduta, che sembrano dirci allegria è venuta per destarci a ricrescer. Variegata ci dai la natura di molteplici toni cangianti, di verde novella speranza, e affidi a fiori sgargianti l'attesa di frutti gustosi, e vai dissipando volanti qual minute farfalle in una nebbia di sogno che corre per ignoti sentieri a fugar dell'inverno i cupi pensieri e cercar poi l'amore nell'estivo calore. Tra nubi rigonfie o stirate da venti impetuosi e sprecciar di rondini s'affaccia prezioso Dio Sole e riaccenderci vuole. Se cadono i petali e volano i pollini di cui l'ape si pasce, è pur sempre la vita che muore e tosto rinasce. San Lorenzo. La ricerca del sollievo dalla calura induce a passeggiate notturne che offrono lo spettacolo del cielo stellato. Sono ricordi di quando ero ancora studente, io studiavo di notte e quindi ogni tanto facevo una passeggiata a vedere le stelle. Agosto 1999. T'amo, sole, che desti ognor pagliuzze d'or negli occhi nostri ed estasi d'intensità infinita, e nutri senza fine il fuoco d'ogni passione umana. T'amo, acqua, che fai scender triste il pianto sul desio di ciò che non fu e di ciò che mai sarà. T'amo, bufera violenta, che mi scuoti dal profondo dei miei visceri e pur dolorosamente vivo sentire mi fai. Quando dormi Tatomerus, ho fatto una posposizione. Allora adesso viene San Lorenzo con la ricerca del sollievo della calura e le passeggiate notturne. San Lorenzo, stella del cielo, stella d'agosto, mentre lievi tu cadi, trai con me del mio cuore un desio nascosto. Fa che l'alma gemella parimenti lo intenda, sicché entrambi più stretti il loro amor li trattenga. Autunno divino. La prossima poesia si riferisce ad una stagione che con la magia dei suoi colori, l'allungarsi delle ombre, la mitezza del sole, ci dà la malinconia di tutto ciò che sta per svanire. Autunno divino. Tu spezzi i raggi del sole, li esplodi in mille frammenti di luce su fiori, su prati e arbusti, o la pioggia trattenersi ha voluto in gocce dorate. Natura superba dimenticarci vuol far l'estate, perciò qual pavone ci corteggi a piume spiegate. Non bastan parole ad esprimer tanta abbondanza di luci e color. Percepir fa la distanza tra noi e colui che tanto splendore ha creato. Con tanta bellezza ci induce all'ancore e desio, natura lo svela, poi di nuovo si cela, nel cupo invernale a conservarlo ci esorta. Siccome l'autunno, o piccolo uomo, se morir tu sai in bellezza, avendo negli occhi un raggio di sole, o l'arabesco nel cielo di un bianco gabbiano, o balzi gioiosi d'uno scoiattolino, si prepara per te una vita risorta. Ora c'è la serie La stagione dell'anima. Sono le pieghe del cuore, emozioni e sentimenti. C'è la gioia in queste poesie, dono, grazie, amicizia. Anche l'amicizia è un dono. Dono. Più gran piacer non v'è che quel che altrui si dona. Che amor, come dice il Vade, torna reso e all'oggetto del desir si fa più adeso. Grazie. Non mi basteranno i giorni, le parole e il fiato per pronunciarle, per dirti grazie d'aver ridato vita alla mia vita. Non ci saranno mai fiori e lor colori e odori capaci d'esprimerti la mia riconoscenza e riscattare agli occhi tuoi, Signore, la mia presunzione, autosufficienza, pochezza e impudicizia. Amicizia. Amicizia, che altro è se non solidal sostenersi e reciproco aiutarsi nella vita a spartire le gioie e le pene? È l'affetto tra anime chiare come un pendolo che mai si arresta, un'andata cui segue un ritorno che già include la vera risposta. È dall'atto del dare che si prova piacere, e qui trova compenso, e non dall'oggetto, né fatica o impegno risente il soggetto. Una stretta di mano e un abbraccio dolcemente uniscono i cuori, e un aperto leale sorriso, gaio e franco, compare sul viso. Rende amici soltanto i migliori. Il bello e il buono desio sono valori eterni che l'uomo ha sempre ammirato e desiderato. Così io li ho vissuti e li vivo tuttora. Il bello e il buono. Come lesto il treno della vita, cuori estatici porta rigonfi del bello e del buono che illumina il mondo. Eterno permane il pensiero nella mente, resuscita il vero, allieta, rispecchia, consola l'alma stessa che vibra in dolcezza. Le gioie più grandi sono spesso velate da dolce tristezza. Le insidie pur sempre, timor di scomparsa, in bruciante amarezza. Desio. Per quanto grande è l'orbe terraqueo, per quanto estese siano le nuvole del cielo, per quanti astri possa contenere il nero spazio, per quanti uccelli volino nell'aere, per quanti pesci alberghino negli oceani, tanto più ricco e forte è il pensier mio, e immutato e ardente del bello il mio desio. Ieri sera finisce la giornata, sta tramontando il sole e anche la vita dell'uomo va spegnendosi, ma vi sorprenderà un guizzo di speranza. Vien sera, rifletti. Vien sera. Al di là del fiume che segue la fine e l'inizio d'ogni miser mortale, getta l'anima tua con i ricordi più antichi e i desideri più recenti, i progetti inconclusi, i propositi scaduti e gli affetti più cocenti del vecchio tuo cuore. Non crucciarti, c'è già chi attende al traghetto del corporeo tuo esser ormai stanco del viaggio da questa ad altra vita. Ma è poi vero che il tramonto c'è dall'alba in bellezza? Non si dice che col rosso di sera bel tempo si spera? Un cristiano non può dimenticarsi della stagione della fede. I morti un mese prima, c'è un vissuto fisico, quasi biologico, del giorno dei defunti. I morti un mese prima. Pioggerella sgradita, inattesa, uggiosa, tediosa, monotona come il ritmo del tempo che cade sul grigiore dei tristi pensieri. Non lavi né lenisci le pene del cuore, ma le scavi come il marmo nel tempo e vi lasci fredde e sbiadite sensazioni d'eterno e di morte. È freddo, gelo, grigio e vuoto, il colore del dolore. Preghiera è un'azione, talora reazione fiduciosa che fa rinascere. Preghiera. Mani intrecciate, congiunte. Pensieri caldi del cuore. Nell'intimo giungete, ove mente non può. Forti e serene le ombre sciogliete, dolci e leggere, alla vita d'estate. Natale di sangue, Natale di speranza, Pasqua 2008, Pasqua di questi tempi. Queste grandi festività gioiose, ma talora accompagnate da eventi funesti, vengono riportate insieme con la tragedia del Venerdì Santo, in una chiave che non so se sia più religiosa, storico, antropologica, o forse tutto insieme tradotto nel nostro tempo. Natale di sangue. E tu, Betlemme, perla di Davide, sei il bersaglio di stragi compiute nel nome di Dio comune, che in tanto disastro più nasce non può, in frastuono e gridar di morenti. Né gli angeli in volo levarsi non possono nel fumo del fuoco di carni umane dilaniate e consunte. Re magi più arrivano dall'Oriente, teatro di delitti efferati, abietti e perpetrati lungo un antico cammino che non riesce più ad esser né via, né verità, né vita. Bagliori accecanti che squarcia la notte non lasciano più spazio alla stella cometa. Che Natale mai questo di dolori e di sangue, dove ancor prima di nascere è già morto il Signore. Senza posa e senza casa, tu vaghi, o parco al divino, in attesa che risorga l'amore bambino d'un uomo che ama tutti quanti i fratelli, nell'amore ancor crede e nella pace a sua fede. Natale di speranza. Tra un Natale di sangue e il Natale dei ricchi, c'è ancora posto davvero per un Natale di speranza? Naufragar sembra il Dio rinato con la fragile carne mortale, ma a redimerci è pure arrivato, a donarci lo slancio dell'ale verso il cielo sereno dello spirito, e per dare all'umanità, all'umana natura, una vita men ria e men dura. Ora sì, che ogni uomo sincero, tra il bailam chiassoso e festoso di effimeri piaceri e consumi e il fragor di tamburi di guerra, troverà nel fratel bisognoso il Dio che, tornato in terra a chieder pace ed amore, da un mondo che torni a sperare e a trovare la strada del cuore. Venerdì Santo. Anch'io mi sono unito al ritmato meccanico coro di sussurrate e sgualcite preghiere. Non mi sono poi opposto a sommesse imprecate bestemmie e alle urla sanguigne di chi muore innocente. Eppur, come dice Turoldo, è nel Venerdì Santo che trovi la giusta tua fede, quando l'altro vero uomo lassù ancora non c'è. È l'amore che a lui pur sempre ci lega, sì grande e giammai bisognoso della nostra speranza. Pasqua di questi tempi. Siamo proprio ciechi a non vedere in questa nostra orbe inquieta scenari biblici di popoli migranti tenuti schiavi e resi sofferenti. Col sacrificio suo sulla croce, per mano umana che è e fu feroce, ci ha redento Cristo dalla pria caduta e senza fin ha prolungato la venuta. Ci ha lasciato in dono i santi e i martiri, a cominciare da Pietro, per continuare col frate poverello e la minuta suora di Calcutta. A tal messaggio il mondo ancora tace, sa sol dimenticar che non c'è pace senza la fratellanza, e neppur senza la pace vige la fratellanza. Gesù è risorto a Gerusalemme, di lì vien, e lì ritorna la speranza. È Pasqua, è la festa della pace e del perdono. Lieto volgesi al risorto, cantando ogni uomo le lodi al Signore. Preghiera a mani giunte. Mani ossute, distorte dalle nocchie, più da vecchiaia che da lavor consunte. Mai ignare d'amare, trasmettervi amiche di carezze foriere per bimbi, per pazienti, più che per parenti, pur a sostener tristemente i morenti. Or sembra che inerti, immobili stiate, stringendo un rosario, conserte ad un corpo che tal più non è, ma a viver tornar certamente potrà, come chi lo ha creato, e per lui ha voluto, nello spirito e alla luce del volto di Dio. Il bosco della vita, quando anche consunto dal tempo e dalle intemperie, il verde del bosco dei prati esalta il bisogno della quiete, la pace, la speranza. Tiepido bosco d'Anaumia. Eretti i tuoi pini, frondosi i tuoi larici, in un alternarsi di ombre e di luci, ci regali il profumo che il vento, sibilando, fa scendere dolce, quasi lento. Si riempie la vista di vaghi colori, mentre l'aria ci dona sublimi odori. Quanta pace può dare questo incanto a vecchietti sciancati, arrancati, mentre sodono canti di allegri, sciamanti bimbetti e guair di graziosi, vivaci cagnetti. Qui davvero si presenta ogni età della vita, alla fine, improvvisa tra gli alberi, appare radiosa dei prati e dei boschi la verde distesa, dolcissima Anaunia. Devo ringraziare chi mi ha aiutato. In primo luogo la professoressa Ripamonti, che è qui davanti a me, che ha curato la struttura più del quaderno. Grazie a mio figlio Stefano, che ha curato la parte fotografica, il frontespizio e pittura di Gaia, che è qua, che ringrazio per avermi consentito di riprodurre questi suoi lavori preziosi. Un grazie sincero a chi dirige questa biblioteca, che ti ha concesso questa serata con tutte le sue attrezzature. Ho fatto per tutti una dedica generica sul retro del quaderno. Per il ciglio, i due quaderni, la dedica è a rovescio. I due che l'avranno non lo prendono come uno sgarbo, ma come un'originalità. Grazie. Grazie ancora al dottor Vieta per la genuinità e anche la sensibilità di queste poesie, un messaggio, un'emozione autentica, sono tutte autobiografiche, quindi anche un dono che ci ha fatto, no? Regalarci certe emozioni che serbiamo nel cuore. Ecco, faccio un appello perché noi vorremmo così coltivare questa sezione della memoria, quindi se conoscete qualcuno che potrebbe essere un testimone da ascoltare, le cui gesta e alcuni aspetti della vita possono essere registrati e documentati dalla biblioteca, vi prego di segnalarlo, ecco, alla nostra struttura. Ben volentieri andremo avanti con il nostro percorso. Vi anticipo che tutto questo materiale, ho chiesto prima al dottor Vieta l'autorizzazione, potrà essere riascoltato su internet dal sito della nostra biblioteca più avanti, quando lo scaricheremo, e poi creeremo a partire da gennaio una parte del nostro portale dedicato proprio alla memoria, a tutte le persone che danno questo contributo, quindi anche al dottor Vieta. Vi do un ultimo avviso: il prossimo mercoledì, fra due giorni, avremo un'altra iniziativa, Topografie, Topografien, un libro di Waltraud Mittich con la moderazione del professor Drubi. Vi porto anche i saluti dell'assessore. E se mi fa portare, che distribuiamo, sì, il quaderno. Sì, benissimo, grazie ancora. Grazie al lettore che ha letto splendidamente. No, così modulato nei toni, così musicali, insomma, non è facile trovarlo. È facile leggere quando le poesie sono belle. Faccio giusto una firmetta. Fammi bene. Bello. Ciao. Ciao. Buonasera. La dedica c'è dietro. Ciao dottore, sono stupefatto e grazie. Due le conoscevo bene, gli ho detto così. Le due della sala. Le ho riciclate. Forse farò una dedica personale, grazie. Fantastico, indimenticabile, il nostro dottor Rubietta, questo poi. Fantastico, grazie perché ci aiuta veramente. La dedica dietro, grande pazienza. Va benissimo, è un po' generica, ma... E tanti saluti anche dal mio marito. Nish. Ah, sì. Dentro le bambine, Nish. Caro Giulio, dottore, complimenti, sempre più bravo. Portato, la sai vinto dove hai portato, no? Grazie infinite, ancora complimenti. Ma complimenti. Una ce l'avevamo, quella di Natale, grazie. Auguroni per 2 mesi di nuovo. Grazie, ci sentiamo, dottore. Noi vogliamo fare anche gli auguri. Non grandissimo. Beh, è bellissimo sto quarto. Cavarino ha detto che è un signore. Si fa, ce l'ha. Lo credo, è preso bene, è bellissimo. E poi mio marito mi parlava sempre di questo. No, sì, ma non ci sono. È capitata la rovescia. L'originalità. Ecco, punto. Eccomi qua. Io sono venuta a portarla perché avevo visto sul giornale. No, sul giornale, siccome mi ricordava una poesia che lei lo conosceva gli italiani del sì. Io ero sua dipendente alcuni anni fa. E so che aveva fatto una poesia anche sulle stagioni e volevo vedere cosa lei stesso magari su questo argomento poteva scrivere. E mi ha sentito molto anche la sua. È bello, sentita che lei era anche emozionata. Ma lei ha lavorato anche tanto all'ospedale qua a Bolzano? No? Io ho fatto seminario del servizio riabilitativo. Ma guarda, perché... Via Pago, Sono arrivata nell'82 qua a Bolzano. Mi ricordo il suo nome molto famoso. Grazie. Lo so, ce l'aveva detto che anche lì c'è una certa. Molto bello, veramente. Voi abitate vicino? Sempre nella stessa zona. Io la rileggo qui, se ne vuoi. Faccia pure qui la legge, io poi ti ho i miei appunti. Perché è molto bello, ma è venuto bene col vento è venuto sì, ma è un drago mio rimane incrociato, non l'ho visto, è che l'ho visto. No, è che andare a Milano è che non ho altri è una cosa bella il prossimo anno se c'è per il figlio? Sì. Giorgio Gaia. Allora, qua studiamo 17:17. Allora è scusata l'Angela perché mi ha detto tanto di dire. bambini stasera. Ecco. A parte che le seguiamo tutte noi. Non so se andrà avanti meglio. Perché no? Di nuovo, dottore. Ciao, è un piacere conoscerla con persone come poeta. Grazie, anche lei. Spero di rincontrarla con una nuova produzione. Chissà mai. Perché abbiamo anche altri autori. Vediamo un po'. Le scrive sempre. Che non si riesca a produrre. Che sono sempre del nord. Allora, alla prossima occasione. Sì, va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, grazie mille. Questo di chi è? È vostro?